Mercoledì, prima settimana, lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Inno. Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce. Vieni Cristo Signore. Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa. Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore. Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo. A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Prima antifona. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso, uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, e li disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Seconda antifona. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali. Elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode. Esaltate e invocate il Suo nome, poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei Tu e glorioso, mirabile nella Tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni Tua creatura, perché Tu dicesti e tutte le cose furono fatte. Mandasti il tuo spirito e furon costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi, insieme con le acque, sussulteranno. Davanti a te le rocce si distruggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Terza antifona. Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra. Egli ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è il Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.